È un Silvio Berlusconi stanco ma soddisfatto quello che in serata si regala una passeggiata per le vie del centro storico della capitale. Le assi portanti del nuovo esecutivo sono state infatti individuate, le ha illustrate anche al capo dello Stato nel colloquio che ha preceduto l'inizio delle consultazioni. Sarà un governo snello, ha garantito il cavaliere al presidente della Repubblica Napolitano. 12 ministeri con portafoglio, 8 senza e niente spacchettamenti. I nodi ancora da sciogliere restano pochi, tra questi quello relativo alla giustizia. Stiamo andando verso una soluzione, ha chiarito Berlusconi. La corsa per via Arenula resta a due, tutta interna a Forza Italia, tra Pera ed Alfano con maggiori probabilità al momento per quest'ultimo. All'azzurro Sacconi andrà il welfare, Alleanza Nazionale che puntava a questo ministero ne avrà in compenso due senza portafoglio, politiche giovanili e comunitarie. Sorprese invece per Calderoli, sarà ministro per la delegificazione, Giovanardi diventerebbe ministro per l'attuazione del programma con la delega sulla droga. Completati infine gli organigramma dei vertici di Senato e Camera. Vicepresidenti di Palazzo Madama sono Nania e Mauro per la maggioranza, Chiti e Bonino per l'opposizione, a Montecitorio per il PDL Leone e Lupi, Bindi, Partito Democratico, Buttiglione, UDC, Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.